simbologia del roveto ardente. Potrei darti di queste cose anche un'altra interpretazione mistica. L'Onnipotente Signore di tutte le cose, infatti, quando cominciò a dettare la legge per mezzo del Logos e volle manifestare la sua potenza a Mosè, apparve a quest'ultimo in visione divina sotto forma di luce in un roveto ardente. Ora, il roveto è una pianta spinosa. Quando poi il Logos finì di dettare la legge e di dimorare tra gli uomini, egli, il Signore, fu di nuovo misticamente incoronato di spine, andandosene di qua e tornando là donde era venuto, e ripetendo così ciò che era avvenuto in principio alla sua prima discesa con la legge data a Mosè. In tal modo il Logos, che si manifestò all'inizio nel roveto e alla fine fu elevato in croce con le spine, mostra che tutto è opera di una sola potenza, essendo egli uno, come uno è il Padre, principio e fine del tempo. Il retto uso dei fiori e degli unguenti. Ma qui sono uscito dallo stile del pedagogo e mi sono addentrato nel genere del maestro. Torno dunque al mio soggetto. Abbiamo già mostrato come non si debba respingere il fascino dei fiori e il beneficio degli unguenti e dei profumi, quando siano usati come farmaci per la salute o in taluni casi anche per un saggio ed equilibrato rilassamento. Se poi qualcuno chiedesse a che cosa servano i fiori, se non li si può usare facendone corone, sappia che gli stessi profumi, utili in molte evenienze, sono preparati con i fiori. Così l'essenza di giglio, che è fatta con gigli, crina e leiria, è riscaldante, aperitiva, ritraente, umidificante, purgativa, diluente, stimolante della bile, emolliente. L'essenza di narciso, fatta appunto con il narciso, ha le stesse benefiche qualità di quella di giglio. L'essenza di mirto, preparata con foglie e bacche di mirto, è astringente ed elimina le esalazioni del corpo. L'essenza di rose è refrigerante. Insomma, tutte queste cose sono state create per nostra utilità. Ascoltatemi, dice, e crescete come la rosa piantata lungo i corsi d'acqua, siate profumati come l'incenso del Libano e benedite il Signore per le sue opere. Il nostro discorso potrebbe continuare a lungo nell'esporre come i fiori e i profumi esistano per apportare benefici necessari e non per la tronfia ostentazione della mollezza. Se dunque bisogna pur fare qualche concessione, ci si accontenti di godere del profumo dei fiori, ma non ci si faccia corone con essi. Il Padre, infatti, è pieno di premura per l'uomo e a lui solo offre i frutti della sua arte. Come dice la Scrittura, l'acqua, il fuoco, il ferro, il latte, la farina di frumento, il miele, il succo dell'uva, l'olio e i vestiti, tutte queste cose sono date come beni ai pii. Come usare del sonno contro il lusso dei letti, dei materassi e delle coperte. Passiamo ora a parlare del sonno, sempre memori dei precetti della temperanza. Dopo la cena, infatti, e dopo aver benedetto Dio per averci fatti partecipi dei beni di cui abbiamo goduto e per la giornata trascorsa, bisogna invocare il Logos sul sonno, cominciando con l'eliminare il lusso delle coperte, i cuscini tra punti d'oro, i tappetini in tessuti d'oro, le tuniche tinte di porpora, le mantelline preziose, i drappi purpurei di cui parla il poeta, le tende merlettate che pendono da sopra e i letti più morbidi del sonno. Il dormire su lanuginosi materassi di piume, oltre ad essere cosa biasimevole a motivo della voluttà, è anche dannoso, perché il corpo affonda come in una fossa per la mollezza del letto. Chi dorme in tali letti non riesce nemmeno a girarsi, poiché da una parte e dall'altra del suo corpo il materasso si erge come una parete. Non può nemmeno digerire i cibi, i quali vengono invece consumati dal calore e in tal modo il nutrimento si guasta. Coloro al contrario che possono voltarsi su letti piani hanno, per così dire, una palestra naturale del sonno e quindi digeriscono più facilmente e si preparano ad essere più idonei ad affrontare ogni circostanza. Inoltre, quei lettucci dai piedi d'argento denunciano grande ostentazione e in essi l'avorio tratto da un corpo separato dall'anima è nefasto a uomini religiosi e una stolta invenzione per riposare. Non bisogna dunque ricercare queste cose, non che sia proibito usarne a chi già le possiede, ma è vietato l'adoperarsi per ottenerle. Non in esse infatti si trova la felicità. E, peraltro, segno di cinica vanagloria desiderare di dormire come Diomede, che stese sotto di sé una pelle di bue agreste, a meno che siano le circostanze a costringerci a ciò. Ulisse raddrizzò con un sasso il suo letto nuziale zoppicante. Tale era la semplicità e l'ingegnosità che si praticava presso gli antichi greci, non solo tra i privati, ma anche tra i sovrani. Ma perché parlare di loro? Lo stesso Giacobbe dormiva per terra e una pietra gli faceva da cuscino. Ed è allora che fu stimato degno di ricevere la visione sovrumana. Noi dobbiamo dunque, conformemente al Logos, usare un letto semplice e povero, dotato soltanto di ciò che si addice a un letto. Qualcosa per proteggere quando fa caldo e qualcosa per riscaldare quando fa freddo. Il letto sia senza ricercatezze e abbia i piedi lisci. Infatti le torniture preziose possono diventare asilo degli insetti, i quali si aggirano senza scivolare su tali artistici intagli. Ma soprattutto bisogna che la mollezza del letto sia resa in giusta misura più virile. Il sonno infatti non deve essere un completo sfaldarsi del corpo, bensì un rilassamento. Perciò sostengo che si debba dormire non per indolenza, ma come riposo tra le attività. Bisogna dormire sobriamente e poche ore. Bisogna dunque dormire rimanendo pronti a svegliarsi. I vostri fianchi, dice infatti la scrittura, siano cinti e le lucerne accese, e sarete simili a uomini che attendono il loro Signore quando tornerà dalle nozze, affinché al suo sopraggiungere e bussare gli aprano subito. Beati quei servi che il Signore, quando verrà, troverà svegli. Un uomo che dorme non serve a niente, come un morto. Perciò spesso, anche durante la notte, bisogna alzarsi dal letto e benedire Dio. Beati coloro che sono svegli in attesa di Lui, poiché si rendono simili agli angeli che noi chiamiamo i vigilanti. Un uomo che dorme non merita nulla, né più né meno di uno che non vive. Colui invece che ha con sé la luce è sveglio. Le tenebre non hanno presa su di lui e quindi neppure il sonno. Chi è illuminato è sveglio di fronte a Dio, è vivo. Ciò che era nato in lui era vita. Come dice la Sapienza, «Beato l'uomo che mi ascolterà e l'uomo che custodisce i miei sentieri, vegliando presso le mie porte ogni giorno e soffermandosi sui gradini del mio uscio». Orsù, dunque, non dormiamo come gli altri, ma stiamo svegli, dice la Scrittura, e manteniamoci sobri. Quelli che dormono, infatti, dormono di notte e gli ubriachi si ubriacano di notte, ossia nelle tenebre dell'ignoranza. Ma noi che apparteniamo al giorno siamo sobri. Tutti voi siete figli della luce e figli del giorno. Non siamo della notte né della tenebra. Ma quello fra noi che maggiormente si cura del vivere vero e di essere autenticamente saggio resta sveglio un tempo il più possibile lungo, salva l'attenzione dovuta alla sua salute. Il che non è molto se ci si sa abituare bene. E una disciplina ascetica porta, con le sue fatiche, a una veglia ininterrotta. Ma non ci appesantiscano i cibi, ci alleggeriscano piuttosto, affinché il sonno ci danneggi il meno possibile e non ci avvenga come a quei nuotatori a cui vengono legati dei pesi. La sobrietà, invece, ci renda leggeri per farci risalire come dalle profondità di un abisso alle altitudini della veglia. In effetti, lo sprofondare nel sonno assomiglia alla morte, poiché esso, a causa della mancanza di pensiero, ci porta all'incoscienza e con il chiuderci le palpebre ci taglia via dalla luce. Noi dunque, figli della vera luce, non chiudiamo fuori dalla porta questa luce, ma rivolgiamola dentro di noi, illuminando così gli occhi dell'uomo interiore, contemplando la verità stessa e partecipando ai suoi effluvi. In tal modo sveleremo con chiarezza e sapienza quei sogni che sono veraci. Ora, i rutti di chi è appesantito dal vino, il russare di chi si è rimpinzato di cibo e giace tra le coperte, i gorgoglii degli stomachi sovraffaticati, tutto ciò guasta la limpidezza dell'occhio dell'anima e la mente si sovraffolla di mille immagini e fantasie. La causa ne è il troppo cibo, che trascina l'elemento razionale nell'incoscienza. Il molto sonno, invero, non porta utilità né ai nostri corpi né alle nostre anime, e anche quando è secondo natura non è sempre adatto all'agire che ricerca la verità. Anche il giusto Lot, tralascio qui la spiegazione del piano divino della rigenerazione, non sarebbe stato trascinato a quella illecita unione se non fosse stato ubriacato dalle sue figlie e stordito dal sonno. Pertanto, se eliminiamo ciò che ci induce a cadere in troppo sonno, dormiremo più sobriamente. Non bisogna dormire tutta la notte, avendo piuttosto come nostro ospite il Logos che vigila. Al contrario, ci si deve alzare di notte, soprattutto quando le giornate si abbreviano. L'uno si mette a studiare, l'altro si occupi del suo lavoro, le donne si occupino della lana e tutti insieme lottiamo, per così dire, contro il sonno, abituandoci a poco e dolcemente, così da poter avere, grazie alla veglia, un tempo più lungo in cui si è vivi, cioè che il sonno è come un esattore che ci preleva la metà della nostra vita. E se ritagliamo perfino alla notte il più possibile di tempo per essere svegli, a maggior ragione non bisogna permettere che dormiamo quando il sole è spuntato. La svogliatezza annoiata, l'essere sempre stanchi, gli stiramenti, gli sbadigli sono i segni di insoddisfazione di un'anima fluttuante. Ma soprattutto bisogna sapere che non è l'anima che ha bisogno di sonno, essa infatti è sempre in movimento, ma è il corpo che, sostenuto dai riposi, si lascia andare all'indolenza quando appunto l'anima non agisce più attraverso il corpo, ma riflette in se stessa. Così anche quei sogni che sono veri, se si ragiona correttamente, sono i pensieri di un'anima sobria e in quel momento non trascinata di qua e di là attorno agli stimoli del corpo, ma piuttosto consigliera a se stessa delle cose più nobili. Se l'anima cessa di vibrare, muore. Pertanto, con il pensiero sempre rivolto a Dio attraverso un continuo dialogo con Lui, l'anima richiama il corpo alla veglia, assimilando così l'uomo a uno stato di grazia angelica e attraverso l'impegno a vegliare raggiunge l'eternità della vita. Distinzioni concernenti la procreazione dei figli. Lo scopo del matrimonio. Ora ci resta da esaminare il tempo adatto all'unione intima per coloro che sono sposati, i quali devono avere per scopo la procreazione dei figli e raggiungono il loro fine se hanno una buona prole. Così anche per il contadino il motivo per cui getta i semi è il desiderio di cibo ed egli raggiunge il suo fine quando raccoglie i frutti del suo lavoro agricolo. Quanto più nobile è allora quel contadino che semina in un campo dotato di anima. Il primo, infatti, coltiva in vista di un nutrimento temporaneo. Il secondo, invece, si prende cura della preservazione dell'universo. Il primo coltiva per sé, il secondo per Dio, poiché egli ha detto «moltiplicatevi» e bisogna obbedirgli. Per questo l'uomo è immagine di Dio, perché pur essendo uomo collabora alla nascita di un uomo. Condanna di ciò che viene fatto contro natura. Ora, non ogni terra è adatta a ricevere i semi, e anche se lo fosse non lo sarebbe però per ogni agricoltore. Non bisogna seminare tra i sassi, né fare oltraggio al seme, poiché esso è l'essenza da cui ha inizio la generazione e contiene seminati in sé i principi razionali della natura. E certamente è cosa contraria a Dio disonorare irrazionalmente questi principi razionali che sono secondo natura, seminandoli in canali che sono contro natura. Guardate come il sapientissimo Mosè, ricorrendo a simboli, respinse il seme sterile, dicendo «Non mangerai la lepre né la iena», cioè non vuole che l'uomo partecipi alle loro caratteristiche e che gusti una lascivia simile alla loro, giacché questi animali hanno una brama insaziabile di accoppiarsi. Della lepre si dice che ogni anno ha un anno in più e che quindi possiede tanti orifizi quanti sono gli anni della sua vita. Pertanto la proibizione di mangiare lepri appare come una condanna della pederastia. Quanto alla iena, che anno dopo anno ad alternanza diventa maschio e femmina, la proibizione di mangiarne significa che chi se ne astiene non deve darsi alla fornicazione. Io concordo sul fatto che il sapientissimo Mosè, attraverso la suddetta proibizione, abbia voluto alludere al divieto di assomigliare a questi animali. Però non accetto la spiegazione relativa alle cose dette con valore simbolico. È inammissibile, infatti, che alla natura possa essere fatta violenza sì da mutarla. È impietà che ciò che è stato modellato una volta per tutte venga rimodellato subendo una trasformazione. Una trasformazione subita, pathos, infatti, non è più natura. Essa del resto suole non tanto rimodellare ciò che è stato plasmato quanto piuttosto adulterarlo. È vero che molti uccelli si dice che a seconda delle stagioni mutino il colore e la voce. Il merlo, ad esempio, da nero diventa verdastro e se prima cantava bene fa poi solo dei mormorii. Così pure l'usignolo, cambiando le stagioni, cambia colore e melodia, ma essi non mutano la natura, sì che il maschio per metamorfosi diventi femmina. Lo spuntare di nuove penne, a guisa di un vestito nuovo, conferisce ad esse colore e brillantezza, ma poco dopo, con la minaccia dell'inverno, tutto ciò svanisce come un fiore che appassisce. Allo stesso modo anche la voce, molestata dal freddo, si secca. Contraendosi infatti l'epidermide, per effetto dell'atmosfera, i canali che sono nel collo, serrati e contratti, comprimono il respiro, il quale quindi emette un suono soffocato. Ma poi, quando torna ad essere in accordo con l'atmosfera e viene la primavera, il respiro si distende, è liberato dalla strettezza e fluisce di nuovo con agilità in quei canali che fino a quel momento erano serrati. Allora la melodia non è più un suono languente, ma si effonde, chiara e si espande largamente, e così il canto diventa come la primavera della voce degli uccelli. Simbologia della iena e proibizione dei rapporti contro natura. Non si deve dunque credere che la iena cambi mai la sua natura. Lo stesso animale, infatti, non ha contemporaneamente sia il sesso maschile che quello femminile, come hanno ipotizzato alcuni, immaginando mostri ermafroditi e inventando l'androgino, una terza natura a metà tra il maschio e la femmina. Ma si ingannano di gran lunga, non comprendendo l'abilità artistica della natura, madre universale e generatrice. In realtà, essendo la iena un animale estremamente libidinoso, la natura le ha creato sotto la coda, prima dell'ano, un'escrescenza carnosa simile alla matrice femminile. Ma essa non ha alcun passaggio, cioè voglio dire che non conduce a nulla di utile, né a un utero né a un retto, ma solo a un'ampia cavità dove accoglie la libidine di un seme sprecato, allorquando i suoi canali della procreazione sono distolti altrove, essendo occupati con la gravidanza. La natura ha conferito queste caratteristiche sia al maschio che alla femmina delle iene, a motivo della loro smisurata lascivia. Anche i maschi, infatti, si accoppiano tra di loro, onde è assai raro riuscire a prendere una iena femmina. In questo animale le gravidanze non sono continue, proprio perché fra essi si moltiplicano spudoratamente le inseminazioni contro natura. È per questo, mi pare, che anche Platone nel Fedro, respingendo la pederastia, la chiama bestia selvaggia. Infatti, dice, i debosciati dediti ai piaceri, mordendo il freno, vanno in giro come i quadrupedi, nel continuo tentativo di procreare. Gli atei, dice l'Apostolo, Dio li ha consegnati in balia di passioni ignominiose. Le loro femmine, infatti, hanno tramutato le relazioni naturali in relazioni contro natura, e così pure i loro maschi hanno abbandonato le relazioni naturali, ardendo di desiderio gli uni per gli altri. I maschi commettono l'ignominia con i maschi e ricevono così già in se stessi la giusta punizione per il loro traviamento. Neppure agli animali più lascivi la natura ha permesso di accoppiarsi usando il retto. L'urina, infatti, è messa a parte nella vescica, il cibo, una volta umidificato, nell'intestino, le lacrime negli occhi, il sangue nelle vene, il cerume nelle orecchie, il muco, infine, scende nel naso. E il deretano, da cui vengono espulsi gli escrementi, non è separato dal tratto intestinale. È dunque solo nelle iene che l'industriosa natura ha avuto l'idea di aggiungere questo organo per i loro accoppiamenti in eccesso. Per questo motivo, inoltre, esso è profondo solo fino a un certo punto, per servire al membro eccitato, ma poi la sua cavità non va oltre, non essendo stata creata per generare vita. Da tutto ciò è assolutamente chiaro e conforme alla nostra tesi che bisogna respingere l'accoppiamento tra uomini, l'inseminazione non fecondante, le unioni da dietro e quelle viziose e innaturali. Dobbiamo invece seguire la natura, la quale, attraverso la disposizione stessa degli organi, ha vietato queste cose e ha dato all'uomo la virilità, non perché ricevesse il seme, ma perché lo emettesse. Quando Geremia dice, ossia lo spirito per mezzo di lui, «La mia casa è diventata spelonca di iena», esprime la sua avversione per chi si ciba, come le iene, di corpi morti, ma allo stesso tempo, con sapiente allegoria, condanna l'idolatria. Il corpo, casa del Dio vivente, deve essere veramente puro dagli idoli.